oracolo su Babilonia ricevuto da Isaia, figlio di Amoz. Su un monte brullo issate uno stendardo. Alzate la voce verso di loro, agitate la mano, perché entrino per le porte dei nobili. Io ho emesso un ordine a quelli che sono a me consacrati. Ho chiamato per il mio sdegno i miei prodi, fieri della mia grandezza. Grido di moltitudine sulle montagne, simile a quello di un'immensa folla. Grida tumultuose dei regni, delle nazioni radunate. Il Signore degli eserciti passa in rivista l'esercito di guerra. Vengono da un paese lontano, dai confini dei cieli, il Signore e gli strumenti della sua collera per distruggere tutto il paese. Urlate, perché è vicino il giorno del Signore. Esso viene come una devastazione voluta dall'Onnipotente. Perciò tutte le mani si infiacchiscono ed ogni cuore umano si strugge. Sono conturbati, spasimi e dolori li colgono, si contorcono come una partoriente, si guardano l'un l'altro stupiti, i loro volti sono volti di fiamma. Ecco, il giorno del Signore arriva, crudele. L'indignazione e lo sdegno di collera per fare della terra un deserto e sterminare da essa i peccatori. Infatti le stelle del cielo e le loro costellazioni non fanno brillare la loro luce. Il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Punirò il male sulla terra ed i malvagi per la loro iniquità. Metterò fine all'orgoglio dei presuntuosi ed umilierò l'alterigia dei tiranni. Renderò l'uomo più raro dell'oro ed il mortale più raro dell'oro di Ofir. Perciò scuoterò i cieli e la terra traballerà dal suo posto a causa dell'indignazione del Signore degli eserciti nel giorno del furore della sua collera. Allora, come una gazzella messa in fuga e come pecore che nessuno raduna, ognuno si dirigerà verso il suo popolo, ognuno fuggirà verso il suo paese. Chiunque sarà incontrato sarà trafitto e chiunque sarà sorpreso cadrà di spada. I loro pargoli saranno schiacciati davanti ai loro occhi, le loro case saranno saccheggiate e le loro mogli violate. Ecco che io suscito contro di essi i Medi, che non pensano all'argento né si curano dell'oro. Con gli archi atterreranno i giovani, non avranno pietà del frutto del ventre. I loro occhi non si impietosiranno dei bambini. Babilonia, lo splendore dei regni, l'onore orgoglioso dei Caldei, sarà sconvolta da Dio come Sodoma e Gomorra. Non sarà più abitata né popolata di generazione in generazione. L'arabo non vi pianterà la tenda, né i pastori vi porranno gli stazzi. Vi si stabiliranno le fiere del deserto. I gufi riempiranno le loro case. Vi dimoreranno gli struzzi, vi danzeranno i satiri. Le iene urleranno nei suoi palazzi e gli sciacalli nei lussuosi edifici. La sua ora si avvicina, i suoi giorni non saranno prolungati.